Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan. In questa puntata parleremo di elefanti, lupi, uccelli, orche e belughe, sperimentazioni senza animali, film che possono farti cambiare il tuo stile di vita e, se vi pare poco, avrete anche della musica e una ricetta priva di crudeltà, che saranno il condimento finale della prossima mezz'ora. They can Non è un continente per elefanti. Il Botswana, stato dell'Africa meridionale, ha tolto il divieto alla caccia dell'elefante che durava dal 2014. Lo ha fatto per ridurre una popolazione di animali in crescita che crea danni alle colture e per guadagnare sul costo delle licenze di caccia. Il via libera alla caccia nella savana arriva all'indomani dell'allarme lanciato dall'ONU sul rischio estinzione degli elefanti, il cui numero cala dell'8% ogni anno a causa anche del bracconaggio per l'avorio. Il Botswana ospita più elefanti di tutti gli altri paesi, con una stima di 130.000 esemplari. La caccia, ha dichiarato il governo, riprenderà in modo ordinato ed etico, ma l'esecutivo non ha spiegato come sarà regolata. Un rapporto stilato dal locale Ministero dell'Ambiente avrebbe registrato livelli elevati di conflitti tra elefanti e umani. Il problema della convivenza fra umani e pachidermi però non riguarda solo il Botswana. Gli elefanti hanno bisogno di un territorio molto vasto per muoversi e mangiare. Ma in un'Africa dove la popolazione umana cresce rapidamente, questi imponenti animali finiscono inevitabilmente per incrociare campi coltivati e villaggi. Gli stati locali, invece di far abbattere gli animali in eccesso dai ranger, fanno fare il lavoro dei ricchi cacciatori stranieri, facendosi pagare profumatamente le licenze. I safari generano una vera e propria industria locale, dando da lavorare a diverse persone. Abbattere un elefante costa oltre $40.000. Fino adesso si poteva cacciare in Sudafrica, Zimbabwe, Namibia, Tanzania e ora purtroppo anche in Botswana. There was a day so like blue. There was a day so like blue. Avevamo già parlato della grande mobilitazione a cui avevano partecipato anche star come Leonardo DiCaprio per liberare le 10 orche e gli 87 beluga ammassati nel carcere delle balene sulla costa russa dell'Estremo Oriente. A fine febbraio il presidente russo Putin aveva incaricato il Ministero per le Risorse Naturali e l'Ambiente e il Ministero dell'Agricoltura insieme alle organizzazioni scientifiche di trovare una soluzione ottimale per le balene. A metà maggio le autorità avevano annunciato la firma di un accordo per un tempestivo rilascio. Però Uno dei proprietari della prigione non ha alcuna intenzione di sottostare a quest'ordine e ha dichiarato: qualsiasi domanda riguardante la loro liberazione può essere posta solo dopo che sarò privato dei diritti di proprietà di quelle reti. Quei mammiferi sono anche di mia proprietà e non ho alcuna intenzione di liberarli. Continua quindi la corsa contro il tempo per salvare 11 orche e 90 beluga. Almeno queste erano le stime iniziali, perché all'appello mancherebbero almeno 4 esemplari che potrebbero essere morti o già venduti. Una balena può valere milioni di dollari a secondo della specie e il loro destino è proprio quello di essere immesse nel mercato cinese. Dalla rivista Natura.com apprendiamo della sentenza della Corte di Giustizia Europea che si è espressa sull'apertura agli abbattimenti dei lupi in Finlandia e ha dichiarato: la Finlandia non sarebbe riuscita a dimostrare scientificamente che consentire la caccia al lupo determini conseguentemente anche la riduzione del bracconaggio. Con questa sentenza svanisce definitivamente uno degli argomenti utilizzati da chi anche in Italia vorrebbe aprire la caccia al lupo, commenta la LAB. Anche il Piano Nazionale del Lupo, nelle prime versioni presentate, sosteneva che il ricorso alle uccisioni illegali dei lupi avrebbe consentito di ridurre casi di bracconaggio e consentito al contempo di raggiungere una sorta di pace sociale. Ma si tratta di argomentazioni del tutto prive di senso, che abbiamo sempre combattuto e che ora anche la Corte di Giustizia Europea mette definitivamente al bando. Per favorire la corretta convivenza col grande predatore, che è tornato ad abitare il vecchio continente, l'unica strada da percorrere è quella della prevenzione incruenta. La pratica della sperimentazione sugli animali o vivisezione è uno dei temi forti della lotta animalista nella storia. L'imperatrice nuda di Ruesch è stato un potente atto di accusa contro la scienza che adopera gli animali in maniera spesso crudele e quasi sempre inutile e insensata. Attorno a questo tema si è sviluppato un punto di vista che concentra l'attenzione sulla questione etica, e cioè sulla liceità o meno. E per gli animalisti questa liceità non c'è, di utilizzare corpi di altri esseri viventi per produrre medicine, studiare malattie, con una utilità che può riguardare esclusivamente la specie umana. E sappiamo che la sperimentazione animale si è anche sviluppata attorno a questioni non centrali per la sopravvivenza della nostra specie. A fianco di questa lotta, centrata sui principi di fondo, si è manifestata nel tempo ed è cresciuta anche di credibilità e di intensità una critica alla sperimentazione animale all'interno della scienza, con l'avvio anche di forme di sperimentazione alternativa che prescindono dalla sperimentazione sugli animali e dai suoi innumerevoli problemi anche tecnici e scientifici e ottiene risultati significativi, importanti, utilizzando altri strumenti, grazie soprattutto allo sviluppo di tecnologie sempre più raffinate sia nello sviluppo dei materiali sia nella elaborazione dei dati. In un recente numero di Internazionale è stato pubblicato un intervento firmato da Thomas Hartung, che è il direttore del Centro per le Alternative ai Test sugli Animali della Johns Hopkins University negli Stati Uniti e dell'Università di Costanza in Germania. Si tratta del centro forse guida in questo ambito. L'articolo è titolato L'intelligenza artificiale che salva gli animali. Hartung racconta dell'enorme numero di animali che viene utilizzato per testare la tossicità delle sostanze. Un pesticida, esemplifica, può essere sottoposto anche a una trentina di test diversi per un costo di 20 milioni di dollari, sacrificando più di 10.000 animali fra topi, conigli e cani. Al Centro per le Alternative ai Test sugli Animali, scrive Hartung, abbiamo cercato una soluzione migliore. Come ormai fanno molti biologi, ci siamo affidati all'intelligenza artificiale, scoprendo che a partire dai dati già disponibili sulla tossicità chimica, era in grado di generare nuove informazioni. Nel 2016 abbiamo creato un database composto da 800.000 studi tossicologici su più di 10.000 sostanze chimiche registrate in base al regolamento europeo REACH. Poi, grazie a un algoritmo, abbiamo previsto la tossicità delle sostanze senza mettere piede in laboratorio. L'intelligenza artificiale in sostanza è di grandissimo aiuto a connettere fra loro tutte le ricerche, tutte le conoscenze sviluppate dai laboratori scientifici. In questo modo può diventare superflua la sperimentazione sugli animali anche all'interno delle logiche scientifiche attuali. Hartung conclude il suo articolo scrivendo queste parole. I grandi database sono ancora rari, con l'eccezione dei programmi automatizzati di alcune agenzie statunitensi, che hanno sottoposto circa 2.000 sostanze chimiche a più di 700 test cellulari e altre 10.000 sostanze a 60 test. L'intelligenza artificiale, oggi accessibile ed economica, può risolvere molti problemi grazie alla sua potenza di calcolo e può salvare migliaia di animali. Il percorso della ricerca alternativa è dunque in piena evoluzione e sta vivendo anzi una fase di grande sviluppo, come ci testimonia il professor Luigi Lombardi Vallauri, che affronta proprio questo tema, reduce da un importante convegno scientifico che si è tenuto di recente a Napoli. Sentiamo. Nella mia postfazione all'importante libro di Felicetti e Kuan, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora, come e perché superarla, ho svolto un ragionamento in tre mosse. 1. Se la vivisezione, cioè la sperimentazione atroce e letale, non ha valore scientifico, va semplicemente abolita. Se ha valore scientifico ed è sostituibile, va sostituita. Se ha valore scientifico e non è sostituibile, siamo di fronte a un caso dolorosamente perplesso, tipico della bioetica. Ora, gli ultimi decenni mostrano, uno, che l'etica e il diritto considerano sempre più doveroso evitare, in tutta la misura del possibile, l'inflizione di sofferenza e morte agli animali. Due, che la scienza considera sempre meno probante valido il passaggio dai modelli animali, ratti, topi, eccetera, all'uomo. Quindi si impone, per quei due motivi, una decisissima incentivazione delle procedure cruelty free. Tra queste procedure alternative sta emergendo una interessantissima che ho scoperto per merito del dottor Fausto Passariello, presidente della Fondazione Vascular di Napoli. Si chiama Organs on a Chip, tradotto alla lettera organi su una scheggia, su una scaglia, meno alla lettera organi bioartificiali o, se volete, organoidi artificiali. Si tratta di bioinformatica o di bioingegneria. Infatti uno dei protagonisti è l'Institute for Biologically Inspired Engineering di Harvard. Si sono creati in silicio, in plexiglass e simili, degli equivalenti funzionali, sottolineo funzionali, non riproduzioni strutturali, di tessuti biologici umani, di parti di organi, addirittura di interi organi, che vengono poi sottoposti a prove del tipo come reagiscono a farmaci, a tossine, al passaggio di sangue, a dilatazioni, a pressioni. E in prospettiva avveniristica ho sentito parlare anche di humans on a chip, cioè di collegare i simili organi tra loro fino al limite a simulare funzionalmente l'intero organismo umano, cosa oggi del tutto impossibile. Sono dei modelli, dei simulatori, non animali. I verbi usati sono modellare, simulare, mimare, replicare, rappresentare funzioni di organi, per esempio del polmone, lung on a chip, o interazioni tra organi, per esempio il passaggio di molecole dall'intestino al sangue o la circolazione del sangue. Il punto chiave scientifico ed etico è che i modelli in questione possono sostituire molto vantaggiosamente, direi decisivamente, la squalificatissima sperimentazione su animali e soprattutto la vivisezione, cioè la parte più atroce della sperimentazione. Mi sembra sarebbe un cambiamento epocale. Nel panorama terribile della violenza e della crudeltà umana, questa è una linea di ricerca che apre uno spiraglio alla speranza. Dal sito agireora.org leggiamo di una ristoratrice americana dello stato degli Idaho che, dopo aver guardato il film Dominion per 20 minuti, è rimasta così colpita da prendere all'istante la decisione di rendere vegan il suo locale e annunciarlo subito al mondo. La ristoratrice si chiama Maria Barut ed è proprietaria del Light Not Café. Dopo la visione aveva scritto sulla pagina Facebook del locale: renderò vegan Light Not Café nelle prossime settimane. Prometto di servire sempre cibo eccellente che tutti potranno gustare. Se funzionerà bene, se non funzionerà e mi costerà il lavoro, così sia. Non posso più andare avanti come prima, sapendo che ho finora sopportato l'enorme sofferenza degli animali e le ingiustificabili pratiche dell'industria della carne, delle uova e del latte. Sono subito arrivati un mare di commenti, quasi tutti positivi, da tutto il mondo, il che è stato per lei un grande incoraggiamento. Il suo locale aveva già circa un terzo del menù costituito da piatti vegan, ma nel giro di poco è diventato 100% vegan. Il locale è andato alla grande, tanto che un successivo suo commento è stato: le vendite sono alle stelle, gli ingredienti costano meno, mi sento molto più felice, i nostri frigoriferi sono una meraviglia, pieni di cose buone e sane. La versione italiana di Dominion si trova sul sito TV Animalista. Nel 1980 esce l'album Wild Planet dei B-52s, sonorità new wave e surf con impasti vocali di tutto rispetto che hanno vantato numerose imitazioni. Inoltre, i componenti sono storici collaboratori di Pita. Nel 33 giri Wild Planet troviamo la canzone Private Idaho, che vi propongo in onore di Maria Baruz. Chi da anni propone cucina senza derivati animali, il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, che tutte le settimane ci propone una ricetta a tema all'interno dello spazio Il Pasto Gentile. Prepariamo piatti e tovaglioli e sentiamo cosa ci propone. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Oggi, in onore degli elefanti, la ricetta del witkook, tipico street food del Botswana e del Sudafrica. Una sorta di panino fritto e farcito. Si può trovare anche in versione dolce, coperto di marmellata. Questa invece è una versione salata con una farcia al 100% vegetale. Gli ingredienti per 4 persone sono, per la pasta, 250 g di farina tipo 0, 6 g di lievito di birra, circa un quarto di cubetto, un pizzico di zucchero di canna, un pizzico di sale, 150 ml di acqua, olio per friggere. Per la farcitura una carota, una cipolla bionda, 50 g di granulare di soia, 50 g di piselli, del prezzemolo, peperoncino, olio extravergine e sale. Lasciate riposare il lievito di birra in acqua tiepida assieme ad un pizzico di zucchero per 5 minuti. Quindi impastate assieme alla farina e un pizzico di sale. Dovrete ottenere un impasto liscio e piuttosto morbido. Tenderà ad essere appiccicoso, quindi lavoratelo con le mani infarinate per una decina di minuti. Lasciate riposare coperto con un canovaccio o con della pellicola per alimenti almeno per un'ora. Nel frattempo tagliate la cipolla e la carota a quadretti piccoli. Mettete in un tegame e fate scottare con poca acqua. Quando questa sarà evaporata, aggiungete il peperoncino e 2 cucchiai di olio extravergine e fate soffriggere per qualche minuto. Unite il granulare di soia e di piselli e portate a cottura con acqua o brodo vegetale, aggiustando di sale. Riprendete la pasta e formate delle sfere delle dimensioni di un mandarino. Appiattite leggermente le estremità e fate friggere in olio caldo, ma non troppo, su entrambi i lati, fino a quando saranno ben dorati. Scolate e lasciate intiepidire su carta per frittura. Infine, riempite i Witkook con la farcia, decorando con del prezzemolo. GreenReport.it ci informa che ogni anno in Europa e nel Mediterraneo circa 20 milioni di uccelli vengono uccisi o catturati per commercio illegale. Sono queste le cause principali del rapido declino di diverse specie. Marco Barbieri, responsabile del segretariato della Convenzione sulle specie migratorie, ci informa che il crimine sugli uccelli è un fenomeno complesso che richiede un approccio multisettoriale per essere efficacemente affrontato. La collaborazione tra i diversi attori è fondamentale e il fatto che 2 convenzioni internazionali abbiano accettato di rafforzare ulteriormente la loro cooperazione sviluppando una strategia comune rappresenta un significativo passo avanti. Per contrastare questa piaga che minaccia la biodiversità, infatti, la Convenzione di Bonn e quella di Berna hanno dichiarato il loro impegno comune nella lotta al bracconaggio nella regione mediterranea. I rappresentanti di 25 paesi del Mediterraneo ed europei, insieme ad altre 20 organizzazioni internazionali e ONG, hanno discusso delle modalità per affrontare gli atti illeciti contro gli uccelli durante una riunione internazionale tenutasi a Castel Porziano, in provincia di Roma. Speriamo che le soluzioni prese diano frutti immediati e duraturi. E siamo in chiusura. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Camilla Lattanzi e Giuseppe Coco, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.